Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata di Un abuso al giorno. Subito la mail: unabusoalgiorno@radio24.it. Vi ricordo anche il mio blog, che si chiama Guardie o Ladri, come la trasmissione che conduco il sabato alle 19.30 su Radio 24. Lo trovate sull'home page del Sole 24 Ore, o altrimenti digitate robertogalullo.blog.ilsole24ore.com. Allora, ricorderete, alcuni giorni fa, lunedì esattamente, abbiamo cominciato a parlare con il comando di Polizia Municipale di Napoli dei permessi per gli invalidi. Questo grazie ad una segnalazione di un nostro radioascoltatore che aveva trovato e aveva segnalato una strana concentrazione di permessi nel centro storico della città. Abbiamo con noi gli stessi ospiti di lunedì scorso e quindi chiedo subito al nostro radioascoltatore Ciro se è d'accordo con le valutazioni della dottoressa Tramontano del Comando di Polizia Municipale di Napoli, la quale giustamente faceva presente che i vigili urbani a Napoli comunque il loro lavoro, pur tra tante difficoltà, lo svolgono. Qual è il suo giudizio, Ciro? Allora, io, se mi è permesso, vorrei aggiungere un dettaglio a quello che ha detto gentilmente la dottoressa Tramontano. Lei ha parlato dei 30.000 permessi tagliandi dell'ufficio, rilasciati dall'ufficio di Napoli, 30.000, 33.000, se non ricordo bene il numero. Io ho notato una cosa interessante su questi, diciamo, tagliandi, che probabilmente il 90-99% non viene dall'ufficio di Napoli, ma è autorizzato da altri comuni della provincia di Napoli, comuni vesuviani, piccoli comuni dove, suppongo, presumo, probabilmente sia più facile avere questo tipo di permessi, che però poi sono validi in tutta Italia, voglio dire, se uno è, ecco, invalido, no, ma infatti, è invalido ovunque. Questo lei ha fatto bene a dircelo, perché abbiamo già affrontato nel passato questa tematica ed effettivamente molto spesso i tagliandi, ma poi mi corregga ora Tramontano, sono validi in tutta Italia. Ecco, voi siete a conoscenza di questo fatto che segnala Ciro oppure no? Sì, sicuramente anche questo è un dato da tenere presente, perché giustamente, come diceva il nostro ascoltatore, il tagliando è valido su tutto il territorio nazionale, quindi qualsiasi comune, ovviamente, insomma, il disabile di Napoli può circolare a Milano così come viceversa, insomma, sicuramente questo è un dato anche da tenere presente. Ecco, ma voi avete dei rapporti con le altre polizie municipali strette, con gli altri comuni? Perché ovviamente poi Napoli vuol dire la più grande provincia d'Italia, mi corregga se sbaglio, credo che conti qualcosa come 4,5 milioni di abitanti e forse anche più, ha una concentrazione pazzesca, basti pensare Torre Annunziata, 120.000 abitanti, vale a dire quasi il triplo di una cittadina come Vercelli nel Piemonte. Quindi avete questo tipo di rapporti o contatti, oppure tutto è lasciato, così come dire, all'arbitrio, e quindi poi voi a Napoli vi trovate con questa condizione? No, sicuramente noi abbiamo contatti con le altre forze di polizia, ma proprio per la particolarità del nostro lavoro, perché insomma si renderà conto che praticamente insomma ci si trova a dover fare i conti, diciamo così, anche con persone non residenti sul territorio. Per quanto riguarda lo specifico, sì, quando ci capita di questi diciamo controlli che non sono rilasciati, permessi che non sono rilasciati dalla nostra amministrazione, si cercano contatti con le amministrazioni che le hanno rilasciate per informazioni, anche se diciamo non esiste un dialogo costante e continuo per quanto riguarda le informazioni reciproche. Bene. Quando c'è necessità, questo sicuramente. Bene, Tramontano, io la ringrazio per il suo intervento. Ciro, prima di chiudere, qualcosa da aggiungere? No, nulla più, tranne il fatto che ormai io sono un felice utilizzatore dei mezzi pubblici, perché è impossibile ormai parcheggiare dove ci sono le strisce blu, che appunto sono coperte al 100% da queste automobili, che per carità qualcuna sarà giustamente. Assolutamente, certo, certo. Però volevo far notare anche questo. Io ieri, così, dato che mi piace fare i conti, questa è una zona dove la striscia blu costa pure abbastanza, costa circa 2 euro all'ora. È facile fare un conto che soltanto calcolando le ore lavorative in un anno si spendono quasi 4.000 euro. ed è quello il probabilmente quello che non incassa neanche il Comune di Napoli permettendo una situazione del genere, moltiplicato ovviamente per tutte le macchine situazione. Perché questo lei dice problema di cassa, diciamo. C'è un problema di cassa, vuol dire problema che di cassa nel senso che permettendo questa situazione il Comune di Napoli rinuncia a perché l'invalido non paga. Evidentemente no. Certo, quindi lei c'è. Beh, ma non è il Comune di Napoli che rinuncia a questa situazione. Casomai il Comune di Napoli è vittima di questa situazione e dovrebbe essere interessatissimo anche per una questione di cassa a fare in modo che non ci siano invalidi falsi che parcheggiano nei luoghi in cui invece dovrebbero parcheggiare solo i veri invalidi, è così, no? Ecco, benissimo. Allora, io la ringrazio per il suo intervento, grazie alla Polizia Municipale di Napoli, alla quale auguriamo buon lavoro, e ora cambiamo pagina andando a sentire come si comporta un comando municipale di un comune attaccato, di un grande comune attaccato a Napoli, quale è Torre Annunziata. Per capirne di più abbiamo chiamato, e lo ringraziamo per questo, il comandante della Polizia Municipale, Salvatore Visone. Buongiorno Visone. Buongiorno a lei, dottore. Allora, volevo chiederle questo, comandante. Come cercate di arginare voi a Torre Annunziata il fenomeno dei falsi permessi per invalidi che poi appunto circolano non soltanto nel vostro agglomerato urbano ma anche fuori dallo stesso e anche a Napoli, come abbiamo avuto modo di sentire dalla dottoressa Luciana Tramontano. Prego, comandante. Sì, grazie. Beh, innanzitutto occorre precisare che più che di falsi permessi si tratta di permessi veri, regolarmente rilasciati, che però vengono riprodotti in fotocopia a colori continuamente. Questo è un fenomeno abbastanza diffuso. Consideriamo che noi rilasciamo legittimamente circa 1 migliaio di permessi attualmente per i portatori di handicap e che se tali permessi vengono poi fotocopiati, ecco che si ha una diffusione abnorme degli stessi che vengono poi usati ovviamente su tutto il territorio nazionale. Il problema è purtroppo che l'uso indiscriminato di queste fotocopie si basa anche sulla connivenza degli stessi titolari dei contrassegni. Ecco, ma voi come cercate di arginarlo questo fenomeno? Perché effettivamente, e lo ripeto ancora una volta, noi l'abbiamo trovato questo fenomeno dovunque, non soltanto in Campania, ci siamo occupati di Torino, ci siamo occupati di Roma, ci siamo occupati di Milano, abbiamo trovato ahimè questa deprecabile pratica ovunque. Però ecco, le chiedo, voi come comando di Polizia Municipale avete delle indagini, cercate di controllare, denunciate le persone, come cercate di arginare questo fenomeno delle fotocopie, ahimè? Ovviamente l'azione si svolge su più fronti. Innanzitutto noi ci stiamo attrezzando per dotare di un bollino antifotocopia i nostri permessi che rilasciamo. Questo dovrebbe in parte ridurre il fenomeno. Poi aggiorniamo continuamente le nostre banche dati per verificare che il titolare abbia ancora diritto ad avere tale permesso, addirittura sia ancora in vita. Infine poi c'è il momento della repressione che viene attuato, però questo attraverso appostamenti che sono però piuttosto complicati da gestire, occorre impegnare il personale per più tempo in attesa che venga il soggetto che ha esposto il contrassegno per le verifiche poi del caso, e se si riscontra un qualche abuso, qualche illecito, viene sanzionato o addirittura denunciato. Assolutamente. Ecco, le chiedo questo, la stessa domanda l'ho fatta anche alla dottoressa Tramontano di Napoli, vale a dire qual è il tipo di collaborazione che esiste fra comandi di Polizia Municipale, perché poi è normale che molte di queste autovetture circolino non soltanto per l'Italia, perché ricordiamolo, i posti poi per invalidi sono validi su tutto il territorio nazionale, ma spesso, come dicevo in premessa, poi gravitano proprio intorno al capoluogo, ed allora credo, mi corregga se sbaglio, che sia importante anche la collaborazione fra comuni, no? Sì, la collaborazione è un fatto importante, dovrebbe migliorare in questa direzione, però sicuramente c'è un collegamento nel momento in cui viene, diciamo, sanzionato sul territorio nostro qualcuno che espone un contrassegno rilasciato a un altro comune, noi poi entriamo in contatto con gli uffici che hanno rilasciato questo contrassegno, glielo spediamo per le verifiche poi del caso, quindi diciamo una sorta di collegamento c'è. Ah, ho capito, quindi se anche voi, come dire, sospettate che qualcuno utilizzi fraudolentemente un assegno, un permesso perché fotocopiato, voi stessi vi mettete in contatto con quel comune. Certo, soprattutto nel caso in cui venga ritirato, la comunicazione poi viene fatta al comune che l'ha rilasciato perché faccia gli accertamenti poi sul titolare, sul perché questo permesso non sia in possesso del titolare ma sia magari in fotocopia, in possesso di persone estranee. Assolutamente, ecco, io le chiedo questo, comandante. Sicuramente Torre Annunziata è un comune complesso da tanti punti di vista, ma in una graduatoria, diciamo così, anche per capire l'impegno che profonde la Polizia Municipale, una graduatoria, diciamo così, di abusi o di illeciti cosiddetti minori, questo della fotocopia dei permessi per invalidi e quindi dell'uso fraudolento, come la collocherebbe? È una sicuramente delle cose più odiose, perché va a penalizzare poi il vero disabile, perché poi i posti sul territorio riservati a loro non è che sono tanti, se c'è un'invasione di persone che non hanno titolo, ecco che appunto viene penalizzata la categoria che andrebbe invece protetta. Sì, effettivamente questa densità bizzarra di automobili con questi permessi fotocopiati è veramente una delle cose più odiose, accade, ripeto, in tutta Italia. Io ringrazio il comandante Visone, comandante appunto della Polizia Municipale di Torre Annunziata, per la chiacchierata che ha svolto con noi. Ringrazio in regia Fabio Cantadori e in studio Laura Fagin. Roberto Galullo vi dà appuntamento a domani per una nuova puntata di Un Abuso al Giorno.